Componimento 55° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Quel fuoco chi pensai che fosse spento dal freddo tempo e dall'età men fresca, fiamma e martir nell'anima rinfresca. Non fur mai tutte spente a quel ch'i veggio, ma ricoperte alquanto le faville, e temo no il secondo error sia peggio per lagrime chi spargo a mille conven che l duol per gli occhi si distille dal cor ch'a seco le faville e l'esca. Non pur qual fu, ma pare a me che cresca, qual foco non avrian già spento e morto l'onde che gli occhi tristi versan sempre. Amor, avegna, mi sia tardi accorto, vol che tra duo contrari mi distempre, e tende lacci in sì diverse tempre, che quand'ho più speranza che il cor n'esca, allor più nel bel viso mi rinvesca. Fine del componimento.